Letture di Radio 24. Soltanto lo scorso anno l'Italia è stata condannata dalla Corte europea a versare 120 milioni di indennizzi per l'eccessiva durata dei processi. Una somma complessivamente superiore a quella pagata da tutti gli altri paesi della comunità messi assieme. Se l'Italia si trova all'ultimo posto per l'efficienza della giustizia, lo si deve anche all'eccessiva litigiosità degli italiani e all'altissimo numero di avvocati, come commenta Euria Loniso in un'inchiesta pubblicata sull'ultimo numero del mensile Pocket Milano. Quando nel settembre 1953, nell'ambito del Consiglio d'Europa, entrò in vigore la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'Italia, come gli altri stati aderenti, prese un impegno preciso: garantire a tutti gli individui posti sotto la sua giurisdizione il rispetto dei principi enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. In sintesi, diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, al rispetto della privacy, a un processo equo e di durata ragionevole, con tutte le garanzie per la difesa. Dal 1959 è attivo un organismo ad hoc, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che ha proprio il compito di garantire il rispetto degli articoli della Convenzione. Ad essa può rivolgersi come ultima spes chi non riesce a ottenere giustizia nel suo paese. Come funziona? Facciamo un esempio pratico. Un cittadino italiano si vede negare un diritto dal tribunale, poi dalla Corte d'Appello, infine dalla Cassazione. Solo a quel punto può rivolgersi ai giudici di Strasburgo. Questi ultimi, se accolgono il ricorso, stabiliscono un indennizzo a suo favore che lo Stato sarà obbligato a corrispondergli. Ed è proprio dalla penisola che arrivano la maggior parte dei ricorsi, quasi sempre per la lunghezza ingiustificata dei procedimenti giudiziari. Lo scorso anno il bel paese è stato condannato a versare indennizzi per 120 milioni di euro, una somma più alta di quella pagata dagli altri 46 stati membri del Consiglio d'Europa messi insieme. Un record. L'Italia può vantare anche un altro primato. Siamo la nazione con il più alto numero di sentenze della Corte per i diritti dell'uomo non eseguite. Siamo arrivati a quota 2569. Da patria del diritto a fanalino di coda. Benvenuti in Italia, AD 2013. Come ha mestamente ricordato Giovanni Canzio, presidente della Corte di Appello di Milano, all'apertura dell'anno giudiziario, l'Italia ha il triste primato in Europa del maggior numero di declaratorie di estinzione del reato per prescrizione, circa 130.000 nell'ultimo anno, e paradossalmente del più alto numero di condanne della Corte europea per l'irragionevole durata dei processi. Ma lunghi quanto? A leggere la relazione sull'amministrazione della giustizia, inviata a inizio anno dal ministro Severino al Parlamento, c'è da preoccuparsi. In ambito penale, la durata media prevedibile dei processi è di 342 giorni per una sentenza di primo grado, 947 per l'appello e 218 per il pronunciamento della Cassazione. L'ultimo rapporto della Commissione per l'efficienza della giustizia nel Consiglio d'Europa, in cui viene confrontata la qualità dei sistemi giudiziari dei 47 paesi membri dell'organizzazione, dice che per la risoluzione di una causa civile di primo grado in Italia sono necessari 493 giorni, in Spagna 289, in Francia 278, in Germania 184. Un problema, quello dei ritardi nella risoluzione delle controversie, che va a pesare anche sulla crisi economica che sta mordendo, a volte uccidendo, le piccole e medie imprese. Il rapporto Doing Business 2013 ha classificato l'Italia al 155esimo posto su 185 paesi censiti per la durata media stimata per il recupero dei crediti commerciali. La media dei paesi dell'Unione Europea è di 547 giorni. Da noi ce ne vogliono 1400. Un tempo abbastanza lungo da far entrare in sofferenza, poi in coma irreversibile, un numero sempre maggiore di imprese. L'anomalia del sistema italiano e l'altissimo tasso di litigiosità dei cittadini sta anche nel numero abnorme di avvocati attivi, 212.000 secondo il Consiglio d'Europa, ma è una stima per difetto visto che è aggiornata al 2008, ovvero 31,9 per giudice, contro i 7,5 della Francia e i 7,9 della Germania. Più avvocati, sa Vassandir, significano più cause. Più cause vogliono dire rallentamento e paralisi della macchina processuale civile e penale. Paralisi vuol dire ingiustizia. I magistrati ordinari, dal canto loro, saranno pure pochi, circa 10.000, ma guadagnano tanto. Su 46 paesi censiti, lo stipendio lordo di un giudice inizio carriera è al 15° posto e quello di un PM all'11°. Ma dopo 25 anni di servizio, giudici di legittimità e procuratori generali presso la Corte di Cassazione guadagnano rispettivamente 176.000 e 163.000 euro lordi l'anno, pari a 7 volte la busta paga media nazionale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Euria Loniso, I primi saranno gli ultimi, dal numero di maggio del mensile Pocket Milano. Ha fatto discutere nei giorni scorsi la proposta del capogruppo del PD, Luigi Zanda, di dichiarare ineleggibile Berlusconi, alla quale ha fatto seguito la sua sottoscrizione al disegno di legge del PD, che vorrebbe escludere dalle elezioni e dai rimborsi i movimenti politici come quello di Beppe Grillo. Le critiche più dure sono arrivate dallo stesso PD, con Renzi che ha evidenziato la scorrettezza di chi vorrebbe eliminare gli avversari a colpi di decreti. Ma le polemiche contro Zanda non si fermano qui, perché dal passato spunta una lettera di raccomandazioni da lui firmata e inoltrata al presidente dell'azienda municipalizzata di Roma. Una pratica considerata poco coerente, dato che qualche anno dopo lo stesso Zanda avrebbe chiesto le dimissioni di Alemanno, proprio per presunte raccomandazioni. Caro Giovanni, caro Luigi, di raccomandazioni nello strapaese Italia se ne sono viste di tutti i tipi, sussurrate all'orecchio, affidate a pizzini che poi vengono gettati via, portate da anonimi commessi o, il più delle volte, semplicemente telefonate, perché da che mondo è mondo certe cose si fanno ma non si dicono, o se si dicono di sicuro non se ne lasciano tracce. Invece all'AMA, l'azienda dei rifiuti della capitale, molto prima che esplodesse lo scandalo Parentopoli, le raccomandazioni non solo venivano messe nero su bianco, ma addirittura protocollate col marchio aziendale. Siamo nel 2007, al Campidoglio c'è ancora la giunta guidata da Walter Veltroni. All'AMA i manager sono scelti dal centro-sinistra. Presidente Giovanni Ermanin, amministratore delegato Biagio Eramo. Alemanno e Panzironi sono ancora là da venire, ma le cattive abitudini non mancano. Il 1° marzo a Ermanin viene recapitata una lettera su carta intestata del Senato. Mittente Luigi Zanda, oggi capogruppo PD a Palazzo Madama, lo stesso che, a dicembre 2010, in pieno caso assunzioni targate PDL nelle municipalizzate, tuonava «Ho presentato un'interrogazione urgente. Alemanno si deve dimettere. Ha una responsabilità diretta per gli interventi con i quali ho fatto assumere i suoi protetti». 3 anni e mezzo prima il senatore scriveva al suo amico Giovanni: «Caro Presidente, mi è stato richiesto di richiamare la tua attenzione sulla richiesta di assunzione in AMA del dottor GB, di cui ti allego il curriculum e la copia di una sua lettera ad AMA». Zanda confessa anche di non conoscere personalmente il dottor B, ma mi vengono garantite le sue capacità professionali e la sua correttezza istituzionale. Ti sarò molto grato se vorrai farmi avere notizie sulle fasi istruttorie attraverso le quali l'istanza verrà esaminata. Con viva cordialità, Luigi Zanda. Segue la firma, autografa. Passano circa 10 giorni e Giovanni risponde: «Caro Luigi, ho ricevuto la tua segnalazione del 1° marzo. Ne terrò certamente conto non appena matureranno le condizioni per nuovi inserimenti in azienda». Di lettere così ce ne sono altre. A Ermanin, il 12 giugno 2007, si rivolge anche Massimiliano Smeriglio, esponente di SEL, oggi vicepresidente della Regione Lazio, guidata da Nicola Zingaretti. 6 anni fa, Smeriglio era a Rifondazione Comunista e scriveva all'AMA su carta intestata del suo partito per segnalare la complessa vicenda di FRP, profugo, assunto in AMA come operatore ecologico. Secondo Smeriglio, la vicenda si complica per i reati commessi contro il patrimonio. L'assenza per motivi di detenzione determina la sua sospensione e poi il suo licenziamento. L'esponente di SEL chiedeva per l'ex detenuto una seconda possibilità, sospendendo il giudizio morale, perché la sua famiglia torni a vivere dignitosamente. Finita? Ancora no. L'ex vice sindaco di Roma, Maria Pia Garavaglia, si spende per far valutare una portatrice di handicap. L'ex vice capo di gabinetto di Veltroni, Luca Odevaine, scrive per sollecitare l'esito positivo di alcuni trasferimenti interni. Tutto nero su bianco, tutto protocollato. Ma perché? Il fatto, dice Hermanin, che le lettere siano state archiviate, testimonia come fosse tutto alla luce del sole. Per la cronaca, quei raccomandati alla fine, in AMA, non sono stati assunti. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Ernesto Menicucci «Io non lo conosco, però assumetelo». L'archivio segnalazioni, le lettere dei politici all'AMA di Roma, dal Corriere della Sera del 21 maggio.